Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Torniamo su un tema di grande attualità che abbiamo già affrontato: la geolocalizzazione all'interno di strutture chiuse. Noi siamo abituati ormai, grazie per esempio agli smartphone, a tutta una serie di servizi legati alla geolocalizzazione. Per esempio, se vi trovate in una città che non conoscete, potete facilmente, con lo smartphone che include il GPS, sapere qual è la pizzeria più vicina, il distributore di benzina più vicino, Dio non voglia l'ospedale più vicino. Al chiuso però il GPS non funziona e di fatto non c'è sistema satellitare che possa funzionare quando vi trovate all'interno di una grande struttura chiusa, come le gallerie, dove è ben noto che il navigatore non funziona, ma anche all'interno di musei, di centri commerciali, di centri dirigenziali, tutti spazi nei quali è facile invece immaginare servizi avanzati collegati alla possibilità di stabilire esattamente la propria posizione all'interno dell'edificio. Per esempio, con un sistema di questo genere potreste essere guidati esattamente nel punto in cui si trova un certo prodotto in un centro commerciale, oppure all'ufficio giusto all'interno di un grande edificio della pubblica amministrazione, oppure potreste sapere quale opera d'arte esattamente state ammirando mentre vi trovate all'interno di un palazzo d'epoca, di una chiesa o di un museo. Ebbene, proprio in un museo è avvenuta una delle prime sperimentazioni al mondo di questa tecnologia. Il museo è quello di arte contemporanea di Taipei, quindi isola di Taiwan. La tecnologia invece è stata messa a punto dall'italiana ST Microelectronics. Per parlarne, la nostra Chiara Albicocco ha incontrato Roberto De Nuccio, responsabile dello sviluppo business di sensori microelettromeccanici di ST Microelectronics. Sentiamo com'è andata. Questa è stata un'esperienza unica, è un progetto pilota. L'idea è stata quella di dotare i visitatori di un sistema avanzato di navigazione indoor basato su uno smartphone di ultima generazione, equipaggiato con una serie di sensori realizzati con tecnologia di micro machining da ST Microelectronics. I sensori, lavorando in collaborazione con il segnale Wi-Fi presente nel museo, sono stati in grado di rilevare con una precisione altissima non solo la posizione del visitatore all'interno dell'area espositiva, ma anche come la persona è orientata e quali movimenti sta facendo in quel momento. Perché? Questo permette di realizzare un vero e proprio sistema di navigazione assistito all'interno del museo, dove chiaramente il sistema GPS, come dicevi prima, non può essere utilizzato. Ecco, in pratica io entro nella sala del museo e cosa faccio? A seconda della sala in cui io mi trovo, dello spostamento, di quale opera ho davanti, che informazioni ho? Come avere un sistema di audioguida avanzato, cioè si ha l'informazione sulla posizione in cui il visitatore è, ma non solo. Si ha l'informazione anche di cosa il visitatore sta facendo, cioè come è orientato e che tipo di gesti sta facendo col proprio cellulare. Questo perché? Perché chiaramente, sapendo questa informazione, è possibile attivare tutta una serie di servizi basati sulla localizzazione e sul riconoscimento del gesto. Mi spiego meglio. L'utente, il visitatore in questo caso, è di fronte ad una scultura, quindi il sistema sa esattamente dove è l'utente, quindi può scaricare da sistema stesso tutte le informazioni relative a quella scultura, ma non solo, puntando con il proprio cellulare verso la scultura può ad esempio automaticamente essere collegato a dei link che sono correlati a quella particolare opera, oppure ruotando il cellulare con un determinato gesto può far ruotare l'immagine della scultura o addirittura tirar fuori delle informazioni cosiddette di realtà aumentata da quella scultura, cioè informazioni che vanno al di là di quello che l'utente con i propri occhi vede. Quindi altissima precisione nel rilevare appunto la posizione. Questo come è possibile se non abbiamo il satellite? Nasce dalla collaborazione tra due tecnologie: la tecnologia di Wi-Fi, che è presente all'interno della struttura e permette una localizzazione dell'utente, ma non con la precisione necessaria. In questo caso intervengono i sensori che coadiuvano praticamente questa funzione, arrivando ad una precisione tale da garantire l'attivazione di questo tipo di servizio. Quindi c'è un accelerometro, c'è un giroscopio, c'è una bussola e c'è anche un sensore di pressione. Lavorando insieme e insieme al Wi-Fi, l'obiettivo è quello di avere la posizione più preciso possibile della persona all'interno, in questo caso, dell'area espositiva. Ecco, lei parla appunto di sistema di sensori e anche questi sensori di pressione ci danno proprio l'altitudine. Allora, facciamo un esempio. Io in questo momento momento sono in via Monte Rosa 91 a Milano, e questo è quello che il mio tradizionale GPS, il mio cellulare, mi dice. Questa tecnologia, questo nuovo sistema ad alta precisione, percepisce addirittura che io mi trovo al primo piano e di fronte alla finestra a tal dei tali. Esatto. Il sensore di pressione permette di determinare, in questo caso utilizzato come altimetro, permette di determinare a quale altitudine si trova la persona. In questo caso, facendo riferimento alle applicazioni di localizzazione, all'interno ad esempio di un centro commerciale, di un aeroporto, di una stazione, permette di automaticamente individuare a che piano dell'edificio o della struttura l'utente si trova. Quindi in questo caso permette di determinare in maniera automatica qual è la posizione della persona se la persona cambia la sua altitudine all'interno dell'edificio. Certo, l'utilità è chiara, cioè in grandi edifici, soprattutto chiusi, grandi spazi come possono essere gli aeroporti, grossi centri commerciali, gli ospedali, abbiamo questo strumento per l'orientamento, ma la potenza di questo sistema si può riscontrare anche nei cosiddetti canyon urbani, cioè quelle strade particolarmente strette e magari circondate da alti palazzi in cui appunto il segnale satellitare è quasi assente. Esatto, cioè in questo tipo di tecnologia che abbiamo oggi esplorato all'interno di sostanzialmente di ambienti indoor può essere efficacemente utilizzata per aiutare il GPS in tutte quelle situazioni in cui, per ragioni sostanzialmente di layout dell'area in cui si trova, non ha le caratteristiche necessarie per garantire la corretta precisione nel posizionamento della persona. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.